Si dice buongiorno anche se non lo è, forse è colpa del tempo che c'è, o di quel martello pneumatico del vicino antipatico. Ad un orario improbabile, oggi sono intrattabile. A te non capita mai di volere stare per gli affari tuoi. Una buona colazione ha reso questo giorno migliore. Ora è decisamente meglio, ora sono sveglio e si può ragionare, anche se quello non sa guidare. C'era il sole e adesso piove e vorrei essere altrove, ma oggi sono contento di me. Non mi posso lamentare, va tutto a gonfie vele. Oggi sono contento di me. Non c'è niente di speciale, sarà questione di buon umore. Oggi sono contento di me. Non mi posso lamentare, va tutto a gonfie vele. Oggi sono contento perché senza motivo particolare. Oggi un bel giorno anche se non lo è, ma dipende solo da me, non dar retta al martello pneumatico del vicino antipatico. Anche se a volte è difficile rimanere impassibile di fronte al problema, non mi faccio portare fuori tema. Non importa chi ha ragione, preferisco sdrammatizzare. E sto decisamente meglio, ed è ciò che voglio. E si può ragionare, anche se quello non sa guidare. C'era il sole e adesso piove, e vorrei essere altrove, ma oggi sono contento di me. Non mi posso lamentare, va tutto a gonfie vele. Oggi sono contento di me. Non c'è niente di speciale, sarà questione di buon umore. Oggi sono contento di me. Non mi posso lamentare, va tutto a gonfie vele. Oggi sono contento perché, perché ho voglia di cantare senza un motivo particolare. Contento di me.